Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, settimana che per le borse si chiude meglio che per la nazionale, verrebbe voglia di dire come battuta, e ci vuole anche poco. Le borse infatti, dopo, soprattutto Milano, dopo essere stata negativa per buona parte della seduta, adesso sta andando in terreno positivo di uno 0,20%, perde ancora l'1% invece Parigi, lo 0,80% Francoforte, Londra meno 1,25%, l'America meno 0,40%. E da noi stanno cambiando gli indici alcuni titoli: il Monte dei Paschi che guadagna il 4,25%, Intesa che guadagna il 3,60%, Unicredito che guadagna l'1,80%, Fondiaria più 1,40%, Ubibanca più 1,20%, come Unipol l'1% lo guadagna il Banco Popolare. E chi perde invece? Luxottica meno 2,60%, Fiat meno 2,2%, Italcementi meno 1,6%, Pirelli perde 1,5% percentuale come Enel, l'1,20% lo perde Cire e Tenaris, l'1,1% Prismian e Autogrill, ma anche Snam, lo 0,80% è il calo di Eni, ma anche di Exor. L'euro è a 1,22-1,23. Poca notizia da lì. Di cosa parleremo oggi? Beh, a grande richiesta, torneremo sui dati diffusi ieri, c'era la partita, probabilmente pochi se ne sono accorti, diffusi ieri intorno alle 16 dal Dipartimento delle Finanze su quanto dichiarano le varie categorie di lavoratori autonomi, anche con le differenze regionali. Abbiate un po' di pazienza, so bene che alcune di queste dichiarazioni lasciano quantomeno perplessi. Diciamo, ieri appunto gli antiquari in media 10.000 euro lordi l'anno, è un po' pochino, stessa cosa si può dire per gli albergatori, 13.000 euro lordi l'anno, i ristoratori. Ci sono categorie che sono sotto il livello della soglia di povertà praticamente, pur non sembrando a noi quando le incontriamo, ma per carità, resta un dubbio. E poi comunque l'evasione in Italia è salita al 125 miliardi di euro, lo stima il Centro Studi di Confindustria, con cui cercheremo di capire anche perché ha invece diffuso delle previsioni di crescita economica del PIL italiano sia quest'anno che l'anno prossimo migliori delle attese, nonostante la manovra finanziaria vada a frenare un po' il PIL, uno 0,4%, i tagli comporteranno uno 0,4% di PIL, di crescita economica in meno. In apertura invece l'Expo, perché insomma ieri non ci sembrava il caso, con quello che è successo alla nazionale, di caricare ulteriormente la puntata con l'Expo, però oggi parliamo delle dimissioni di tutte le cariche, sia nel Consiglio che come amministratore delegato di Lucio Stanca, il commissario per l'Expo. Già la nomina di Stanca fu molto travagliata perché il sindaco di Milano Moratti voleva mettere Glisenti, il ministro Monti disse di no, alla fine si arrivò a Stanca, furono subito polemiche, ricordate infatti la scelta della sede dell'Expo a Palazzo Reale con un costo anche alto e non dentro la sede dell'Expo, ma fatto sta che siamo punto e a capo e i lavori ancora non partono e i privati restano alla finestra per essere buoni con l'Expo. Però adesso ne parliamo. 349-238-6666 per i vostri sms. C'è già chi vuole vedere un parallelo tra l'incapacità della nazionale di organizzare un gioco e una tattica e l'incapacità del paese di organizzare l'Expo. Non lo so, diciamo che sono due cose che non vorremmo vedere. Una abbiamo già vista, speriamo che almeno l'Expo non sia un buco nell'acqua su questo. Sicuramente l'Expo non è solo Milano, non è solo Lombardia, diciamo è tutto il nord del paese e il paese, se permettete, nel suo insieme, che dovrebbe scommettere sull'Expo del 2015 e sulla sua capacità anche di rilanciare un po' l'economia. 349-238-6666 per i vostri sms. Due approfondimenti poi, uno sul settore costruzioni che lamenta un 2010 ancora più nero rispetto al 2009, l'altro invece sul settore farmaceutico, un'intervista che avevamo promesso ieri, l'ascolteremo oggi, una modifica accolta in finanziaria rispetto a una regola che avrebbe penalizzato i produttori italiani di farmaci. Ripeto, 349-238-6666 per gli sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda il petrolio è sempre alto, ma fermo a 77 dollari al barile, il dato americano di oggi. Per quello che riguarda invece l'economia internazionale, in America sono peggiorate le stime sulla crescita economica. Nel primo trimestre è stata rivista da un 3% a un più 2,7%, però la fiducia dei consumatori americani è salita, ha superato ogni previsione a 76 punti. E di nuovo si parla di tasse sul settore finanziario. Una tassa da 19 miliardi di dollari, questo scrive oggi il Financial Times, che la Camera e il Senato americano si appresterebbero a votare, avrebbero già raggiunto l'accordo. La tassa su Wall Street, come si chiama in gergo, deriva e arriva tra l'altro a sorpresa, perché il presidente della Commissione dei Servizi Finanziari alla Camera americana, Barney Frank, l'ha annunciata dicendo: è legittimo chiedere alle istituzioni finanziarie, alle banche d'affari, ma non solo, i cui errori collettivi hanno danneggiato l'economia, di pagare il costo della riforma. E con la riforma di Wall Street, ha detto poco fa il presidente americano Barack Obama, prima di partire per il G8, G20, che inizierà questa sera a Toronto, vi sarà più trasparenza. Vedremo che cosa si arriverà, perché la proposta europea di una tassa sulle transazioni finanziarie, pur votata all'unanimità, ha visto la contrarietà dell'Italia. Nelle dichiarazioni di qualche giorno fa del Presidente del Consiglio Berlusconi, anche uno scambio di battute tra Berlino e Roma, perché Berlino ha fatto notare che non era una proposta solo tedesca, ma votata in maniera unanime da tutti i paesi dell'area euro, e vedremo appunto che documento uscirà da questo G20. È di nuovo record per il rischio bancarotta della Grecia, cioè il premio che si paga per comprarsi debito greco. Il rischio, il CDS, il Credit Default Swaps, con rischio di insolvenza sui titoli di Stato governativi della Grecia, sono saliti a 1140 punti. Ci sono voci sul mercato secondo cui a vendere sarebbero le banche, che hanno bisogno di liquidità per restituire i fondi presi a prestito alla Banca Centrale Europea. Come conseguenza sono in rialzo tra l'altro i rendimenti delle obbligazioni di tutti i paesi considerati più fragili. Spagna al 4,53% si paga l'interesse sulle obbligazioni, Italia al 4% come il Belgio. E ancora, per quello che riguarda le misure anticrisi, la Francia segue in qualche modo l'Italia, ha congelato infatti Sarkozy l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, è stato bloccato per ora l'innalzamento dello 0,5% dei salari della funzione pubblica, inizialmente doveva scattare al 1° di luglio. Ancora due notizie italiane e poi partiamo con l'Expo. Per quello che riguarda le ferrovie, un'anticipazione dell'agenzia di stampa Radio Colle sulle 24 ore confermata, infatti Lamberto Cardia è stato nominato presidente delle Ferrovie dello Stato e Mauro Moretti è stato confermato amministratore delegato, quindi Cardia lascia la Consob, prende il posto di Innocenzo Cipolletta alle Ferrovie dello Stato, e da quello che si è capito poi sarà l'attuale numero uno dell'antitrust, Antonio Catricalà, a diventare il nuovo presidente della Consob, che è l'autorità di vigilanza sui mercati, che si riunisce lunedì. Seguiremo da vicino l'assemblea annuale della Consob. Allora, un'ultima notizia, così iniziamo subito a far arrabbiare gli ascoltatori che già scrivono al 349-238-6666. Non parliamo ancora di evasione, appunto degli artigiani, non ce l'ho con nessuna categoria, sono le varie... Insomma, chi gestisce uno stabilimento balneare in Italia dichiara in media lordi all'anno 10.900 euro. Ora qualcuno li conosce gli stabilimenti balneari in Italia, non sono fatti da gente indigente che chiede con la cassetta pro poveri esattamente l'obolo. Insomma, 800 euro lordi al mese è un po' pochino. Ma ci arriviamo. Adesso però sentiamo quanto spende, visto che parlavamo dell'evasione fiscale dei lavoratori autonomi, sentiamo quanto spende invece lo Stato in auto blu, le auto pubbliche. Allora, sono un po' diverse, perché ce ne sono 30.000 di blu e 90.000 di pubbliche. 10.000 sono per i politici, 20.000 per gli alti burocrati. Il costo medio di ognuno è di 3.300 euro, cioè noi paghiamo 300 milioni di euro di auto blu, per carità, alcune di queste sono necessarie, forse non tutte, I dati, e gli va dato merito, li ha resi noti oggi il ministro alla funzione pubblica Renato Brunetta. La prima cifra, il primo numero chiaro, analitico, che viene fuori dal censimento è appunto che sono circa 10.000 quelle dei politici e 20.000 quelle degli altri funzionari. Siamo arrivati a un quarto del censimento per quanto riguarda gli enti, cioè 2.500 enti rispondenti su quasi 10.000. Tra 10 giorni avremo un ulteriore stato di avanzamento di questa analisi che abbiamo fatta e entro la pausa estiva potremo avere i dati, direi quasi definitivi, attraverso i quali poi sapremo i costi, sapremo se le auto sono in proprietà, se sono a noleggio, sapremo i consumi, sapremo la produttività, sapremo quanti autisti dipendenti, quanti autisti di società che forniscono servizi agli enti pubblici, quanti usano il lampeggiante magari non avendone diritto. Una volta che sappiamo tutto questo, potremo approntare opportune politiche di razionalizzazione, riduzione, taglio, moralizzazione. Questo è un censimento, tra l'altro, totalmente disponibile online, vale a dire tutte le schede di tutti i 2.400 enti che hanno risposto sono disponibili, per cui i cittadini italiani possono verificarle, il loro comune, trovare il loro comune se ha risposto o non ha risposto, prima cosa, e se sì, se ha risposto, se corrispondono al vero le dichiarazioni di quel comune, di quella ASL, di quella università o di quell'ente pubblico, di quel consorzio di bonifica e così via. Così il ministro Renato Brunetta. Noi adesso passiamo a un'altra vicenda che se non è il 3-2 di ieri con la Slovacchia, poco ci manca, per essere un po' così crudi. Diciamo che assomiglia all'1-1 con la Nuova Zelanda. L'Expo di Milano, ma che non è di Milano, è l'Expo della Lombardia, del nord, della parte più ricca d'Europa, con l'Île de France e la Baviera, di quello che è la locomotiva produttiva dell'intero paese. Che dire, era il 31 marzo 2008, in una battaglia all'ultimo colpo con la turca Smirne, si aggiudicava Milano l'Expo 2015. A Milano si farà l'esposizione universale del 2015, si farà, sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. E poi da lì però è successo di tutto, mesi, un anno per nominare il commissario straordinario, braccio di ferro tra il sindaco di Milano Letizia Moratti e anche il ministro Monti, il nome scelto di Paolo Glisenti dal sindaco non piaceva anche al ministro, non è mai stato un mistero. Alla fine si arriva al 9 aprile 2009 alla nomina, e quindi occhi ai tempi, esattamente un anno dopo, alla nomina di Lucio Stanca, voluto dal presidente del Consiglio Berlusconi, come sostituto di Paolo Glisenti. E Stanca dice: ho ottenuto un'ampia autonomia gestionale. Però dopo pochi giorni scontro con la Lega sulla scelta della sede della società dell'Expo. Stanca voleva il Palazzo Reale Milano, un costo molto alto, adesso vado a memoria, mi sembrava sui 300.000 euro. La Lega era contraria, la sede deve stare nell'Expo Europeo. E poi continue scaramucce con il sindaco Moratti, che è anche commissario dell'Expo, con la presidente del comitato dell'Expo Diana Bracco, che rappresenta la base industriale lombarda, e poi al termine, arriviamo ai giorni nostri, di una cena, così riportano le cronache, tra il presidente del Consiglio Berlusconi, il ministro Monti, il sindaco di Milano e il ministro comunque milanese, diciamo così, Ignazio La Russa, Stanca si trova da solo, gli vengono levati a fine maggio nel decreto, nel DDL per la finanziaria, molti poteri e molte autonomie. Poi c'è tutta la polemica sul doppio incarico. Non è che su questo devo dire, Lucio Stanca l'abbiamo cercato, abbiamo cercato anche Diana Bracco, insomma, Lucio Stanca non vuole parlare in questo momento, è assolutamente suo diritto, però insomma il doppio incarico, lo stipendio anno da 450.000 euro strideva un po' con l'incarico da parlamentare, ma insomma non si è mai dimesso, critiche sono arrivate anche alla sua maggioranza. E poi la lettera che è arrivata la settimana scorsa di Diana Bracco, presidente dell'Expo, dicendo insomma: nonostante i licenziamenti, siamo ancora in controtendenza in licenziamenti dentro l'organismo dell'Expo, da 100 dipendenti a 85 per arrivare a 70 entro fine anno, stiamo ancora spendendo troppo rispetto a altre voci di bilancio per quello che riguarda i costi complessivi, 600.000 euro. Le sponsorizzazioni non sono disponibili a investire da qui a 5 anni. Le sponsorizzazioni, secondo la lettera di Diana Bracco, sarebbero appunto meno di 3,8 milioni. In generale, obiettivamente, non è arrivato il numero di investitori richiesto. Salvatore Carubba. Buonasera. Allora, quando parliamo di Expo, arrivi anche tu. Spero che insomma non ci sia nessuna... Spero che non sia collegato attinenza. Questa infausta pagina. Allora, ecco, tu già dici infausta pagina, tu sei direttore della strategia editoriale del gruppo Sole 24 Ore, ma oltre ad aver fatto il direttore del Sole 24 Ore, sei stato assessore alla cultura e musei del Comune di Milano nella giunta Albertini. Conosci molto bene Milano, hai scritto anche dei libri su Milano. Ora, al di là di tutta la querelle prevista e che abbiamo cercato di raccontare, qual è stato il punto? Cioè la mancata stanca rivendica, insomma, che gli hanno levato lentamente i poteri per operare. Chiaramente la Bracco, a nome degli imprenditori lombardi, soprattutto milanesi, ha fatto notare come i conti non tornassero, i costi sono di 600.000 euro in crescita. Insomma, dove sta la diatriba vera e propria, al di là, diciamo così, delle diverse visioni? Io credo che, e non per ripetermi, il nodo principale stia in una forte tensione, un forte conflitto che c'è all'interno della maggioranza, perché se noi vediamo tutti i conflitti sono interni alla maggioranza, con persone che appartengono alla stessa area e con istituzioni che si fanno la guerra. In particolare vorrei ricordare la vicenda, che forse è ancora più grave, che riguarda il destino dei terreni sui quali bisogna costruire l'Expo. Per i quali ha assunto una notevole leadership adesso la regione, quindi aprendo con questo, secondo me, un altro fronte di possibile conflitto con il comune, naturalmente, con la società organizzatrice, proprio perché chi gestisce i terreni, chi è il proprietario dei terreni, avrà una voce assolutamente determinante su quello che sarà il futuro dell'Expo. Quindi ci sono tutti questi fronti aperti, a partire da quelli che hai ricordato tu sulla governance, che hanno visto scontrarsi Comune, Ministero dell'Economia, non dimentichiamo anche questo protagonista silente ma non troppo, che certo non pare aver dato una grande mano in questi mesi all'avvio dell'Expo. Quindi uno scontro interno alla maggioranza che non è stato superato, secondo me, per il fatto che nessuno si è preoccupato di far scattare l'orgoglio della città su questo evento, che è un evento che ha lasciato completamente fredda la città, che ancora non lo capisce, non lo conosce e non sa che cosa può rappresentare per Milano. Quindi la mancanza anche di una domanda su questo evento fa sì che sia rimasto una polemica legata ai palazzi, legata alle conventicole di potere, per di più, ripeto, lo stesso colore politico, e questo certo non ha giovato alla credibilità dell'intero progetto. Allora, per quello che riguarda la vicenda, molti di voi si concentrano sull'ultima lettera. Sì, venivano contestate sponsorizzazioni in calo, venivano contestate anche il fatto che si spendesse meno per gli eventi in Cina, l'Expo di Shanghai, che avrebbero dovuto promuovere poi l'Expo di Milano, il taglio di progetti della comunicazione dimezzati e poi insomma il patrimonio della società. Insomma, però queste erano contestazioni, diciamo, dovute anche, stanca avrebbe potuto replicare facilmente: mi hanno tagliato i fondi in finanziaria, non ho più budget. Tu dicevi e facevi intendere una cosa un po' diversa, che al di là dei numeri è venuto meno la capacità, e qui bisogna dire anche di Lucio Stanca, di chiamare attorno la città intera. Cioè, voglio dire, l'avvio, se mi permette, non è stato dei migliori, perché una querelle sulla sede non è la prima cosa in un periodo di crisi, con quei costi, quando c'erano gli uffici anche all'Expo di Europa, non mi sembrava l'argomento più importante. Però insomma non c'è stato solo quello, cioè è stato forse concepito o percepito, scusami, come un corpo, passami in termini, quasi estraneo alle varie, ai vari soggetti importanti di Milano, della sua provincia, del suo hinterland. Beh, certo, perché il sindaco si era impegnato moltissimo, come ricorderemo, sì, negli anni precedenti per conquistare questo risultato, ed era stato, e onestamente l'ha sempre riconosciuto, anche appoggiata fortemente dal governo, che allora era di un altro colore politico. E quindi il fatto che all'improvviso, dopo questa lunga discussione sulla governance e sui poteri di ciascuno, sia piombato un deputato o un senatore, ancorché amico di Silvio Berlusconi, autorevole, che è stato anche ministro, ha avuto funzioni importanti nell'imprenditoria milanese, quindi non si possono negare certo i profili professionali di Lucio Stanca, probabilmente è stato il segnale che la politica non riuscisse a mettersi d'accordo, o meglio che le istituzioni non riuscissero a mettersi d'accordo, e quindi la vicenda è stata percepita più come un gioco politico che non come un gioco istituzionale di squadra. Allora, noi avemmo Lucio Stanca ospite lo scorso 30 aprile in collegamento da Shanghai, dove appunto apriva l'Expo di Shanghai, quello su cui noi siamo poi impegnati. Noi gli abbiamo anche visto questo Expo di Shanghai quando trasmettemmo Focus Economia dalla Cina, mi riferisco a 3 settimane fa. Devo dire, bello l'Expo, bello il padiglione italiano, il padiglione della regione Lombardia, lasciamo stare, un po' scarno, un po' essenziale. Se quella doveva essere, diciamo, lo specchietto per attrarre, poi per far capire che noi siamo il prossimo paese che ospiterà il prossimo Expo, a mio avviso, giudizio di tutto personale, non ci siamo proprio. Ma detto ciò, i problemi erano ben altri. Già due mesi fa vi fu un'ipotesi da parte del sottosegretario alle infrastrutture e viceministro Roberto Castelli, leghista, e dire: se va avanti così, qua c'è un commissariamento da fare sui lavori. Sentite cosa ci rispose allora Lucio Stanca. Io spero proprio di no, e al momento non ne vedo assolutamente necessità, e spero proprio di no. Castelli aveva, si sono chiariti, collaborati assolutamente allo discorso riguardante alcune opere in specifico, alcune linee metropolitane che sono state autorizzate recentissimamente. Castelli giustamente ha detto i tempi sono brevi, la Moratti ha risposto: io sono già di per sé commissario per queste opere, ma insomma sono cose talmente, diciamo, particolari, minime rispetto alla complessità della sfida che abbiamo nel promuovere attraverso esposizione non solo Milano e Lombardia ma l'Italia, che dovremmo, come dire, tutti quanti concorrere in modo positivo a ora fare questo grande sforzo di promozione dell'Italia attraverso l'Expo. Così appunto Lucio Stanca, che alla nostra domanda, ma insomma, quanto si è in ritardo, perché un anno per trovare il commissario, un altro anno per capire la sede, cosa deve partire, insomma va ben tutto, ma... E dice: ma non siamo in ritardo. Chiarito che non siamo in ritardo, perché il BIR, l'organismo che gestisce queste manifestazioni, chiede 5 anni prima, cioè entro il 30 di aprile di quest'anno, di presentare un dossier per essere autorizzati poi a realizzare. Noi l'abbiamo persino anticipato di qualche giorno, quindi non siamo assolutamente in ritardo. Quanto poi alla nostra complessità, questo è tutto un altro discorso. Qui in Cina evidentemente il sistema è tutto molto diverso, perché è molto, come dire, dall'alto verso il basso, e quindi tutte le complessità anche che ha una democrazia in Cina non la si trova. D'altra parte i tempi dettati dalla comunità internazionale sono di fare l'Expo in 5 anni. Certo. O l'Italia accetta l'idea di far parte della comunità internazionale e prova a fare le cose entro 5 anni, oppure dobbiamo autoescluderci perché noi non siamo capaci di fare un'espansione del 5 anni. Io rigetto questo approccio, perché significa davvero mortificare il nostro paese. La battuta è facile, è stato lui essere rigettato più che l'ipotesi. Adesso gli anni sono ancora di meno, perché non sono più 5, sono 4, se anche qui non vogliamo cambiare i vari calendari. Però Salvatore Caruba, dopo il metodo e la pubblicità, vorrei chiudere questo ennesimo appuntamento con l'Expo, che ripeto noi stiamo seguendo, perché molti di voi ci scrivono per Torino 2006. In effetti Torino 2006, lasciamo stare ogni giudizio politico, fu obiettivamente un successo. Le Olimpiadi invernali di Torino portarono soldi, rimisero a posto anche, lasciamo stare, alcune strutture forse più discutibili, ma come sempre nelle Olimpiadi invernali, però ci fu un successo complessivo, la macchina funzionò, vennero fatti ripartire anche degli investimenti. Perché non si riesce ad arrivare a una cosa del genere? Che cosa sta mancando? Perché, come la mente di Anna Bracco, gli sponsor non ci sono, nessuno vuole investire da qua a 5 anni su questo evento, e quello è poi il vero problema. Ecco la risposta di Salvatore Caruba dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Salvatore Caruba, poi passiamo alla borsa che ha chiuso invariata, oggi poca storia. I tempi, le sponsorizzazioni, che la mente di Anna Bracco non ci sono per questo Expo. E poi, come chiosa finale, insomma, era veramente necessario arrivare alla lettera, agli stracci, oppure insomma si poteva risolvere ma in camera caritatis, diciamo, nelle stanze del consiglio di amministrazione. Ma al di là della forma, sarebbe stato importante, è importante che si trovi una soluzione definitiva e che apra la strada appunto all'avvio dei lavori. Tu ricordavi poco fa Torino e le Olimpiadi, l'anno prossimo Torino ospiterà una manifestazione legata al 150enne dell'Unità d'Italia, che conta di portare in quella città mi pare 6 milioni di visitatori. Zitti zitti hanno fatto abbastanza, mi pare, i torinesi anche in questa occasione. Poi si può discutere sul risultato finanziario, che sappiamo essere stato abbastanza pesante, però insomma certamente anche da questo punto di vista Torino per l'anno prossimo, a fronte di tante polemiche che ci sono su questo tema a Roma, è riuscita a organizzare una cosa che pare piuttosto importante e significativa. Io credo che in ritardo siamo, perché oggi siamo ancora al punto di un anno fa sostanzialmente, con molti dubbi anche sui finanziamenti, o meglio su quando arriveranno i finanziamenti, io credo che il ritardo ci è e ci sia da preoccuparsi. E quindi... Ma è vero che manca ancora la disponibilità dell'area del sito? Manca la decisione su chi gestirà, perché appunto era il tema che indicavo prima, il fatto che la regione vuole acquisire questi terreni e quindi poi diventare padrone dei terreni dell'Expo, e quindi svolge un ruolo essenziale, ovvero andare nella soluzione che si era prospettata, per cui ci sia una sorta di comodato che poi viene trasformata o ricompensata con un aumento dei diritti di fabbricazione. Allora, c'è una domanda con cui chiudiamo che suggeriscono molti ascoltatori al 349-238-6666, che può essere così sintetizzata: ma non sarà che c'è poco interesse perché si costruisce poco, c'è poco cemento da buttare dentro, se vogliono fare i parchi, le linee d'acqua, le linee verdi, e quindi c'è poco giro d'affari, diciamola tutta, c'è poca ciccia per chi deve costruire, da un lato, e dall'altro che si arriverà negli ultimi 18 mesi a fare tutto in maniera straordinaria, modello protezione civile, così poi i controlli non ci saranno, i costi non saranno verificabili, tutto dettato con l'italica straordinarietà, che è la cosa più ordinaria in questo paese. La seconda risposta probabilmente sì. La prima, ciccia per i costruttori in questo momento a Milano ce n'è tanto, quindi credo che sarebbero veramente miopi i costruttori se si astenessero dall'interessarsi su questo progetto, dimenticando quello che stanno già costruendo a Milano, che è molto di qualità. Grazie, io spero una volta tanto di avere Salvatore Caruba per parlare dell'Expo che è finalmente partito, delle prime costruzioni, delle prime linee d'acqua, delle prime linee verdi, delle piste ciclabili, delle piste navigabili, di una Milano più adatta a un futuro green, come piace a tutti dire, poi a pochi fare. Per ora di questo mi accontento. Grazie a Salvatore Caruba. Grazie a voi. E dall'Expo, vedo che quindi dicono: ma no, è più un 3-2 che un 1-1. No, aspettiamo. Per ora è un 1-1, cioè una deludente prestazione di una cosa che sembrava già vinta. Anzi, vinta lo era. Ciao Condina, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Borse, più 0,1 Milano, che comunque va meglio delle altre borse europee, che perde infatti Parigi l'1%, Francoforte lo 0,70%, Londra meno 1, l'America, scusate, 0,5% di calo, euro di nuovo quota 1,23, e l'Italia va meglio perché hanno recuperato soprattutto le banche, e allora Unicredit soprattutto, ma Monte dei Paschi, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi più 4,30%, Intesa San Paolo più 3,5, Unicredit più 1,7, aggiungiamo anche Unipol più 1,6, Fondiaria più 1,5, Ubibanca più 1,1 e Banco Popolare più 0,90, come la Popolare di Milano. Prego. Sì, diciamo che in Italia gli istituti bancari hanno ripreso vigore più che all'estero, anche perché forse hanno perso anche parecchio terreno. Stiamo parlando ad esempio di Intesa San Paolo, che era in rosso da 4 sedute, o Monte dei Paschi di Siena, che insomma nelle ultime settimane è stato più volte bersaglio di vendite, anche per le ipotesi poi sempre smentite di un aumento di capitale. Per quanto riguarda Unicredit invece c'è un avvenimento ben preciso di ieri, con l'ingresso del fondo sovrano di Abu Dhabi nel capitale di Piazza Cordusio, che è diventato primo socio con il 4,99%. Quindi sì, devo dire che l'avete anticipato voi, se non ricordo male, per primi questo ingresso, quindi complimenti. Grazie a voi. Grazie a tutti voi. Adesso andiamo avanti però, e oltre a Unicredit, che giustamente si avvantaggia anche dell'ingresso dei libici, abbiamo visto parecchi acquisti su Fondiari Assai, lì c'è una vicenda un po' diversa. Sì, il Fondsai è sotto riflettori da mesi, perché diciamo l'assicurazione di famiglia del gruppo Ligresti, che la controlla sebbene sia quotata in borsa, la di Fausto Marchionne, intervistato dal settimanale Il Mondo, oggi ha puntualizzato per l'ennesima volta che la società non verrà venduta per far fronte all'emergenza finanziaria di Casa Ligresti. In più Marchionne ha rilanciato sulla cessione del polo assicurativo Liguria Sase, che dovrebbe fornire la stessa Fonsai un incasso tra 300 e 400 milioni. Insomma, gli acquisti in borsa sono arrivati da chi crede ancora nel futuro di Fondiari Assai in Italia, cosa che sembra alquanto probabile. Tra i peggiori, Luxottica -3%, Fiat -2,40%, Italcementi -1,70%, Pirelli -1,6% come Enel, Autogrill -1,3%, Tenaris -1,1%, Exor -1% come le CIR e Prismian. Luxottica, Fiat e anche, volendo ben guardare, oltre ai tracimenti, Enel, perché su Enel c'è notizia che riguarda più il fronte spagnolo, -1,6%. Sì, praticamente a luglio in Spagna devono scattare gli aumenti dei prezzi dell'elettricità, +4%, invece il governo di Zapatero, tra i vari provvedimenti anticrisi, ha anche preso quello di congelare i prezzi dell'elettricità. Quindi Enel in Spagna opera con la controllata Endesa e risentirà in un modo o nell'altro questo blocco delle tariffe. Per quanto riguarda Luxottica, dal 25 maggio a oggi ha guadagnato qualcosa come il 14%, quindi in borsa gli operatori spiegano questo ribasso più che altro con delle prese di beneficio dopo un lungo rialzo. Fiat paga essenzialmente l'incertezza su Pomigliano, dove non si sa ancora come procederà il lingotto a fronte di un esito comunque non plebiscitario del referendum, come si augurava Marchionne. Non pubblicitario è un eufemismo. Comunque, la Roma Calcio +6,80%, Marcolin +6,5%, Pininfarina +6,40%, Interpump +6,3% sono i migliori in assoluto. I peggiori in assoluto si chiamano PPR -6%, TAS -5,91%, TXT -5,3%, e Bastoggi -4,60%. La Roma Calcio, visto che l'indiscrezione è del Sole 24 Ore di oggi. Sì, la Roma Calcio sembra che finalmente si arrivi, dopo anni ormai di discussioni, a una transazione fra la Italpetroli, dei Sensi e Unicredit, che è il grande creditore, scusate il gioco di parole, dei Sensi. Tutta l'Italpetroli e quindi anche la Roma dovrebbe finire sotto il cappello di Unicredit, e la famiglia Sensi resterebbero immobili per 20 milioni. Ciò contemporaneamente però al fatto che i crediti di 325 milioni di Piazza Cordusio nei confronti dei Sensi verrebbero cancellati. Lavora a questa ipotesi. Sì, che era quella appunto presente oggi sul quotidiano. Grazie a te e un buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Colle sulle 24 Ore. Anche a voi, arrivederci. Ora il traffico e poi parliamo del settore dei produttori di farmaci. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, si diceva di un settore come quello dei produttori di farmaci. L'Italia è il terzo produttore farmaceutico in Europa dopo la Germania e la Francia ed è quinto al mondo. Spesso non lo ricordiamo, ma vale la pena farlo. Nell'Assemblea Annuale di Farmindustria, che si è conclusa 2 giorni fa, è stato lanciato un grido di allarme sugli sprechi e le inefficienze del settore sanitario, ma anche sono state indicate le misure presenti in finanziaria che il settore ritiene pericolose perché andrebbero a danneggiare i produttori italiani di farmaci, un settore che da noi vuol dire 67.000 addetti e di cui 6.000 in ricerca, è una produzione che vale oltre 22 miliardi di euro. Abbiamo chiesto al presidente di Federfarma, di Farmindustria, scusatemi, Sergio Dompè, di capire qual è il punto nella legge finanziaria che rischierebbe di danneggiare le imprese italiane. Noi sosteniamo questa manovra e sosteniamo più in generale tutta la lotta sul comparto della sanità per quanto riguarda l'appropriatezza delle spese, inclusa la farmaceutica. Chiediamo che venga fatta chiarezza e che vengano introdotti costi standard dappertutto nel resto dell'84% della spesa, come nel nostro 16%, peraltro rivendicando che il costo per cittadino italiano a carico dello Stato ha la più alta offerta, perché tutti i farmaci essenziali sono dentro, il 70% in termini complessivi sul numero di farmaci, e abbiamo un costo per cittadino 184 euro contro i 264 della media europea, quindi siamo il paese che ha il migliore equilibrio prezzo-qualità. La norma che non ci piace è l'introduzione delle gare nazionali che per i farmaci fuori brevetto generici fissano il rimborso soltanto ai 4 farmaci che costano di meno in assoluto. Questo perché? Non perché siamo contro il risparmio, ma semplicemente perché con questo tipo di norma si privilegiano solo i produttori che, avendo alle spalle economie molto più semplici della nostra, con minori costi di manodopera, di contributi sociali per i servizi sanitari nazionali, possono produrre farmaci a dei costi che sono anche la metà dei nostri, o meglio, se lo Stato vuole fare così lo faccia, sicuramente risparmierà dei soldi, deve però sapere che con quelle norme il nostro sistema produttivo, che ha costi di un certo tipo e sono tra i più competitivi in Europa, però non nel mondo, evidentemente viene chiamato fuori e corriamo il rischio anche di perdere il 54% di export che noi oggi attualmente facciamo. Su questo è intervenuto anche il Ministro della Salute Ferruccio Fazio, che ha detto, insomma, modificheremo questa regola, quella appunto di limitare i rimborsi dei farmaci generici ai 4 farmaci equivalenti di minor prezzo attraverso gare, se ho ben capito, no? Sentiamo il Ministro Fazio e poi ho una domanda per lei. Credo che la posizione di Farmindustria sia corretta, io sono personalmente impegnato per fare in modo di recepirla e sostituire in fase emendativa il principio delle gare con principi di riduzione progressiva del prezzo dei generici e di aumento soprattutto dei volumi. Ricordiamo che il problema fondamentale sono i volumi, che sono bassi del 400%, mentre c'è un aumento di circa il 25% dal punto di vista del prezzo, quindi è più sui volumi che dobbiamo agire. Credo che la richiesta di Farmindustria di cambiare il meccanismo delle gare, quindi di non introdurre il meccanismo delle gare, sia corretta, in questo senso che noi stiamo lavorando. Così il ministro Ferruccio Fazio. Però, presidente Dompè, ci faccia capire una cosa: è chiaro ed è anche legittimo, se mi permette, il sospetto che quando a parlare sono i produttori di farmaci, giustamente anche tutelino i loro interessi e dei loro addetti. Ma dal punto di vista mio, del cittadino che va a comprare il farmaco, cambia qualcosa? Perché la gara avrebbe portato a una scelta di farmaci a costo più basso. Di tutti i farmaci rimborsabili stiamo parlando, giusto? Cioè, a me come cittadino non cambia niente? No, stiamo parlando dei farmaci fuori brevetto. Senza dubbio cambia per il Servizio Sanitario Nazionale, che diciamo però già oggi ha in Europa i prezzi più bassi in assoluto, stiamo parlando di farmaci che costano 4, 3, 5 massimo euro al pezzo. Allora il problema è che oggi il sistema dei controlli e delle garanzie in tutta Europa non è uniforme, quindi è evidente che un minimo di esposizione a un minor controllo c'è. E sotto questo punto di vista c'è anche da dire che attenzione, perché se noi per risparmiare un 10% andiamo a comprare da un sistema esterno al nostro, da una parte risparmiamo il 10%, dall'altra abbiamo quel 90% che non resta dentro il sistema. Se vado a comprare a 90 anziché a 100, ma completamente in un'altra economia, quel 90 non si ridistribuisce più nell'ambito dell'economia che abbiamo noi, e quindi posti di lavoro. Ho capito benissimo, e però siccome ci sarebbe un risparmio per lo Stato di questo 10% della spesa farmaceutica, e quindi per noi cittadini che paghiamo le tasse, non era pensabile una terza soluzione? Quindi non comprare all'estero e penalizzare la nostra industria farmaceutica, non però pagare sempre il 100, ma che voi proponeste gli stessi farmaci a un prezzo più basso. Noi abbiamo proposto proprio, e la soluzione cui il ministro Fazio allude è proprio quella di introdurre ancora altri sconti, cose che noi siamo disponibili a fare. Per cui lei, insomma, ci sta dicendo che senza arrivare poi alla gara in cui magari si avvantaggiava, ulteriori sconti. Sì. E allora li attendiamo, gli ulteriori sconti dei prodotti farmaceutici a cui faceva riferimento il presidente Dompè. Adesso c'è il GR, anzi gli aggiornamenti dei mondiali, poi il GR e poi le categorie, quanto dichiarano i lavoratori autonomi e l'economia italiana, che dovrebbe crescere un po' di più delle attese. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti, ultima parte di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Allora, parliamo da un lato delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori autonomi diffuse ieri dal Ministero delle Finanze, dall'altro dai dati sull'evasione fiscale che il Centro Studi di Confindustria ha stimato ieri, nel giorno in cui però anche previsto una crescita più forte delle attese. Prima di iniziare le polemiche, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, nessuno vuol fare di tutto un erbo un fascio, le differenze, come adesso ascolteremo, sono anche molto importanti da regione a regione, da nord a sud. Certo è che il reddito medio del lavoratore autonomo in Italia è di 27.500 euro lordi l'anno, meno 6% rispetto all'anno prima, ma questo dice poco. Ci sono categorie di lavoratori autonomi, i 4.000 euro lordi l'anno dei pescatori, nemmeno 10.000 euro lordi l'anno dei gestori di discoteche e di impianti sportivi o di bagni, stabilimenti balneari, che lasciano, per essere buoni, molto molto perplessi. La scheda. È vero che la crisi ha colpito quasi tutti, prosciugando il 6% del reddito complessivo. È vero che le medie racchiudono in sé realtà diverse e distanti. Tuttavia, non si può negare che alcune dichiarazioni dei redditi facciano davvero a pugni con il buon senso. Difficile, ad esempio, ipotizzare che i gestori di centri benessere sopravvivano con 308 euro al mese, o che i proprietari di discoteche tirino avanti con 480 euro. C'è poi il caso dei pescatori, che in un anno guadagnano 2.100 euro, ossia 175 euro al mese, e che per di più nel 2008 hanno subito un crollo del reddito di ben il 46%. Con ben altri redditi, ma comunque non molto distanti dalla soglia di povertà, ci sono poi gli antiquari, che incassano in media 10.100 euro l'anno, i gestori di stabilimenti balneari, 10.900 euro, e i fiorai, che in 12 mesi portano a casa 11.900 euro. Va un po' meglio ad albergatori, con 13.200 euro, tassisti e ristoratori, entrambi con 14.500 euro, e poi a macellai e baristi, con guadagni per 16.000 euro l'anno. Per i più, resta dunque irraggiungibile il reddito medio di un impiegato, che, stando alle ultime dichiarazioni, si attesta intorno ai 19.000 euro l'anno. A superarlo, oltre ai professionisti, ce la fanno solo i titolari di autoscuole, i campeggiatori, chi offre servizi di pulizia e i titolari di pompe funebri, grazie a redditi che vanno dai 20 ai 28.000 euro l'anno. Per salire un altro gradino nella scala dell'agiatezza bisogna sfogliare le dichiarazioni di architetti, 29.500 euro l'anno, avvocati, 46.700 euro, medici, 63.000 euro, e infine farmacisti e notai, con redditi medi rispettivamente di 112 e 327.000 euro l'anno, ed entrambi con attività facilmente tracciabili. Bisogna infine aggiungere che se alcuni numeri stridono, lo fanno soprattutto nel mezzogiorno, dove un'economia meno dinamica non basta a giustificare il gap con i redditi del centro-nord. Se a Milano, la città più ricca, i redditi degli autonomi valgono in media 38.100 euro l'anno, nella Calabra Vibo Valentia si precipita, ad esempio, a 15.300 euro l'anno. In Lombardia e nelle regioni del nord, tutte le province mostrano dati superiori alla media nazionale di 27.500 euro, mentre nel mezzogiorno la media dei redditi degli autonomi non va oltre i 20.000 euro. Lo so, stiamo rovinando il fine settimana a più di un ascoltatore, a giudicare da quello che scrivete al 349-238-6666, ma tant'è. La battuta sarebbe anche facile, insomma, è più conveniente occuparsi dei morti, vista la dichiarazione dei redditi di chi gestisce una pompa funebre, che non dei vivi, viste le dichiarazioni dei ristoratori, degli albergatori, degli antiquari, addirittura gli antiquari con 10.000 euro lordi l'anno, abbiamo una forte difficoltà a crederlo, insomma, però lordi l'anno. Detto ciò, questi dati sono usciti ieri dal Ministero delle Finanze, nel giorno in cui il Centro Studi Confindustria, nel presentare dati migliori delle attese sull'andamento dell'economia italiana nel 2010 e nel 2011, ha fatto anche il calcolo di quanto pesi l'evasione fiscale, sia per quello che poi tocca pagare le tasse agli altri, sia sulla, diciamo, busta paga complessiva, per così dire. Siamo in collegamento allora col direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, quanto pesa il fisco reale? Voi ieri l'avete calcolato. E quanto pesa l'evasione? E quale sarebbe, diciamo, il vantaggio anche per le imprese e per i dipendenti delle imprese se non vi fosse questa evasione? Luca. L'evidenza effettiva della pressione fiscale, che si calcola sottraendo al PIL, che sta al denominatore, il sommerso è arrivato l'anno scorso al 51,4%, in aumento rispetto al 2008, con un divario anche questo in aumento rispetto alla pressione fiscale cosiddetta apparente, perché è una misura statistica che è data semplicemente dal rapporto fra il totale delle entrate della pubblica amministrazione e il PIL, che è al 43,2%. L'evasione pesa circa l'8,2% del PIL, sono 125 miliardi di euro l'anno sottratti fra imposte varie e contributi sociali. È chiaro che diminuire questa evasione, ridurre l'evasione o addirittura eliminarla significa distribuire il carico fiscale sulla totalità dei soggetti, dei contribuenti italiani, e va fatto riducendo poi le aliquote, perché altrimenti ci ritroveremo davvero una pressione fiscale astronomica a fronte, diciamo, di uno stato sociale, servizi non adeguati e soprattutto una pressione che finirebbe per soffocare la crescita dell'economia. La riduzione delle aliquote e della pressione fiscale sui contribuenti deve essere del 16%, a grandi linee, significa una mensilità netta in più per un lavoratore dipendente all'anno, cioè 1.200 euro, e per un'impresa sostenere un costo del lavoro di 1.600 euro più basse sempre all'anno per lavoratore, certamente, rispetto a quello che si paga adesso. Insomma, si pagherebbero meno tasse, perché la logica che tu hai spiegato è: se tutti pagassero le tasse si dovrebbe abbassare l'aliquota fiscale, non semplicemente far entrare questi soldi magari nel calderone della spesa corrente della pubblica amministrazione, ma abbassare le aliquote fiscali, e significherebbe per ogni lavoratore in media 1.200 euro di stipendio in più, ecco perché tu parlavi della quattordicesima o quindicesima, e per un'impresa di 1.600 euro di costo in meno per il lavoro. Il calcolo che voi avete fatto riguarda appunto la pressione effettiva, visto che poi appunto non tutti pagano le tasse, come abbiamo appena scoperto, si fa per dire scoperto, ed è del 51,4%, anche se le statistiche dicono 43,2. Questo è il dato, non c'è altro da aggiungere, insomma, è difficile uscire da questa ripresa, da questa crisi economica, e strutturare una ripresa vera e propria se non si aggredisce l'evasione in senso stretto, al di là delle dichiarazioni di intenti. Dopo il traffico, invece, dal direttore del Centro Studi di Confindustria vorrei sapere come mai, sulla base di quali elementi, avete rivisto in meglio, per fortuna, le previsioni di crescita economica per l'Italia sia nel 2010, di poco ma meglio, sia nel 2011, nonostante voi stessi abbiate evidenziato come la manovra avrà un impatto sul PIL, cioè ridurrà il PIL di uno 0,4%, se non ricordo male. Dopo il traffico, la risposta: 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia, e allora al direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi. Stime migliori: più 1,6% il PIL italiano nel 2011, più 1,3 se non ricordo male, più 1,2 quest'anno, scusatemi, tutte stime migliorative, nonostante la manovra finanziaria deprimerà, cioè sottrarrà a quella che era la crescita possibile, uno 0,4%. Come mai? Perché giocano a rialzo tre fattori, tre elementi. La prima, il fatto che questa ripresa si sta rivelando più robusta, diffusa dell'atteso e ha coinvolto, agganciato anche l'Italia attraverso le esportazioni. Questo lo vediamo nei dati di produzione industriale e di export della stessa Italia, lo vediamo soprattutto nella dinamica delle esportazioni mondiali. Il commercio globale aumenterà quest'anno di circa il 17% in volume ed è una dinamica che è già acquisita per 14 punti, nel senso che già a marzo c'è un aumento acquisito del 14%, se da marzo in poi ci fosse variazione zero del commercio mondiale comunque finiremmo con una media del 14% più. Questo è un elemento. Il secondo elemento è la svalutazione del cambio che porta a un'espansione delle esportazioni e del PIL che si traduce grossomodo in un aumento della crescita di un punto percentuale. E il terzo elemento è il fatto che i tassi di interesse verranno tenuti bassi più a lungo, questo diciamo favorisce ovviamente la spesa in durevoli e in investimenti e questo è il contesto diciamo in cui inquadriamo. Ricordiamoci che c'è questo motore impressionante di crescita globale, sono i paesi emergenti che già oggi forniscono quasi la metà del PIL, che viaggiano a un ritmo del 6-7% in media l'anno, soprattutto sono quelli asiatici e sono loro che stanno contribuendo in modo determinante a tirare fuori dalle secche della recessione l'economia globale. Eh sì, e qualcuno ricorderà quando 3-4 anni fa c'era chi proponeva di mettere i dazi contro l'invasione di prodotti asiatici, ma anche 5-6 anni fa. Adesso meno male che i dazi non ci sono, perché la ripresa che c'è arriva da lì. E tu ricordavi l'Asia, anche il Brasile, dove molte imprese italiane stanno andando ad aprire stabilimenti, ha tassi di crescita assolutamente forti, se non incredibili, tra il 6 e il 7%. Quindi grazie all'export, meglio del previsto, al cambio euro su dollaro che se viaggia a 1,20, 1,19, 1,22 a vantaggio rispetto a 1,40, 1,45, come tu ricordavi, e a questa forte dinamica e ai tassi di interesse bassi, quindi costo del denaro molto basso anche per i prossimi mesi, la ripresa sarà più forte del previsto nonostante l'impatto della manovra finanziaria. Mi sembra di capire dal vostro rapporto di ieri però che il vero problema continueranno a essere gli occupati. Voi avete fatto notare che l'Italia perderà altri in tutto tra 2010 e 2011 altri 246.000 lavoratori, posti di lavoro. Sì, questo è abbastanza naturale perché l'occupazione, il mercato del lavoro reagisce con ritardo alle svolte dell'economia e quindi ci aspettiamo appunto che anche in questo caso cominci a migliorare il quadro occupazionale solo a partire dall'anno prossimo. Teniamo presente che in realtà esiste in Italia questo ammortizzatore sociale che è la cassa integrazione che mantiene formalmente il posto di lavoro ma che rappresenta lavoratori non utilizzati nella misura in cui questi poi rimangono effettivamente a casa perché le imprese vengono ristrutturate o addirittura chiuse, c'è un aumento di disoccupazione su quel fronte mentre su altri fronti magari c'è una miglior dinamica. Osservo che diffusi dei dati da parte dell'Istat del mercato del lavoro migliori di quello che ci si poteva attendere sulla base degli stessi dati Istat mensili, una disoccupazione di 2 decimi più bassa, un aumento di occupazione rispetto al quarto trimestre dell'anno scorso, mentre però quest'anno la cassa integrazione ha continuato a salire, quindi probabilmente c'è un rimescolamento con maggiore sofferenza nell'occupazione industriale, dove la produttività è crollata, i margini delle imprese sono bassi e quindi occorre recuperare produttività e invece altri settori, probabilmente nei servizi, servizi alla persona, servizi alle famiglie, dove la domanda continua a crescere perché c'è richiesta di nuovi tipi di consumi. Sì, però come tu giustamente facevi notare, il fatto che la cassa integrazione non venga conteggiata come disoccupazione poi fa sì che se per caso l'impresa non apre più o chiude, in definitiva quello ti si scarica come dato subito sul percentuale dei disoccupati. Grazie comunque, anche perché al di là vedo ancora molti messaggi a 349-238-6666 sull'evasione fiscale, ma quello non è un dato che... cioè, in qualche, non si, un giorno faremo una puntata per capire come fanno gli altri ad avere un'evasione fiscale più bassa, non inesistente, solo più bassa. Però la buona notizia riguarda appunto una crescita un po' più robusta del previsto, grazie al direttore del Centro Studi Confindustria Luca Paolazzi. Grazie a voi, buon pomeriggio. E siamo veramente in conclusione. C'è chi dice che bisognerebbe licenziare 1 milione di dipendenti pubblici inutili e sarebbe più efficace che combattere l'evasione fiscale. Magari ne parliamo, sicuramente la pubblica amministrazione può risparmiare di più, ma questo non giustifica l'evasione ai livelli che abbiamo ricordato. E poi chi consuma al posto di questi milioni di dipendenti pubblici? Comunque ne parleremo. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione, a Valeria Bernardi per l'assistenza in regia. Un auguro di buon fine settimana a tutti voi in ascolto. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.